Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quello che l'Italia raccomanderà sempre sarà quello di lavorare per una Libia unita, per una Libia autonoma, sovrana. Questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, prima giornata della settimana, è stata una giornata, bisogna dire, di conclavi, di riunioni solenni, chiuse, insomma, come quando si elegge il nuovo Papa, perché c'è stato il conclave a Mosca, a cui ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Conte, per una tregua in Libia, il conclave per i reali inglesi sulla richiesta di Harry e Meghan di avere più autonomia dalla famiglia reale, conclave nella giunta al Senato sul caso Gregoretti, conclave anche del PD in un'abbazia vicino Rieti. Insomma, cercheremo di capire in questa puntata, da questi conclavi, che cosa, quali esiti sono sortiti. Tante cose da raccontarvi anche in questo inizio di settimana, dunque Roberta Giordano con voi. Per i vostri messaggi, i vostri commenti, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Tra le altre cose parleremo anche di una scoperta importante, tutta italiana, che mette in correlazione un batterio con l'infarto, e poi le nomination agli Oscar con Joker, che insomma ha fatto veramente incetta di candidature. Ma direi di partire con la sintesi della giornata. Politica italiana: Conte assicura che per il governo ci sarà a breve un'agenda efficace e condivisa. Salvini avverte: se vinciamo le regionali l'esecutivo sarà sfrattato. Il PD intanto in conclave in una abbazia vicino Rieti. Guerra in Libia, trattativi a Mosca, il premier Sarraj firma la tregua mentre il generale Haftar chiede tempo sino a domani. Reali inglesi, Elisabetta dice sì alla nuova vita di Harry e Meghan, ora periodo di transizione. Iran, nuove proteste antigovernative per il terzo giorno. Viabilità e sicurezza, viadotto Cerrano sulla 14 sotto osservazione per lo spostamento del terreno. Inquinamento, troppo alti i livelli dello smog a Roma, domani due fasce di stop per le auto fino agli Euro 6. Salute, una ricerca italiana scopre in un batterio intestinale complice dell'infarto. Cinema in vista degli Oscar 2020, Joker fa il pieno di candidature. Partiamo quindi dalla politica italiana. Il Presidente del Consiglio Conte rassicura sulla tenuta del governo giallorosso, dice state tranquilli che perverremo a un'agenda condivisa sul processo riformatore, ancora più convinti e determinati. Benvengano questi giorni in più, ha aggiunto il Presidente del Consiglio, a fine mese ci ritroveremo e più facilmente faremo sintesi, anch'io farò le mie riflessioni, questo parlando appunto di questa verifica di governo che ci sarà nei prossimi giorni. Ma il leader della Lega, Salvini, che in campagna elettorale in vista delle amministrative del 26 lancia l'annuncio di sfratto, dice se vinciamo in Emilia Romagna via il Presidente del Consiglio. Il Partito Democratico intanto riflette sulla propria identità, sul proprio futuro in conclave in un'abbazia vicino Rieti. Ne parleremo comunque di tutto questo tra poco. Passiamo adesso alla guerra in Libia. Il premier libico Sarraj ha firmato a Mosca il documento messo a punto da Russia e Turchia sulla tregua in Libia, mentre il generale Haftar ha chiesto tempo fino a domani. Se non firma, tutto il mondo saprà chi non vuole la pace in Libia, ha detto l'ambasciatore libico a Roma, Gadur. Ad Ankara, in incontro tra il presidente del Consiglio Conte e il leader turco Erdogan, tutte e due, e insieme al leader russo Putin, parteciperanno domenica alla conferenza di Berlino. Nulla di fatto, nessun accordo tra i due avversari in Libia, i negoziati tra il presidente del governo di unità nazionale al-Sarraj e il generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, sono per ora terminati. Anche se il ministro degli esteri russo Lavrov è fiducioso, sono stati fatti passi in avanti e mentre Sarraj ha già firmato l'intesa, Haftar ha chiesto più tempo, insomma per Mosca solo una battuta d'arresto. L'accordo prevedeva lo stop all'intervento turco nel paese, l'invio di militari russi per la supervisione dell'attività, attuazione del cessate il fuoco, un ritiro bilanciato delle truppe e il disarmo delle milizie. Haftar però aveva avvertito: non ritireremo le nostre truppe, manterremo le nostre posizioni. Un accordo al quale anche l'Europa guarda con il fiato sospeso in vista della conferenza che si dovrebbe tenere a Berlino domenica. Sosteniamo un percorso politico che parta da questo cessate il fuoco sotto l'egida dell'ONU, aveva detto Conte al termine del suo incontro ad Ankara con il presidente turco Erdogan. Abbiamo condiviso col presidente Erdogan la urgente necessità di porre fine all'escalation sul terreno per garantire un cessate il fuoco duraturo. Quanto all'invio di più soldati in Libia, per il premier è prematuro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora con l'Iran, nuove proteste nel paese, nuove proteste antigovernative per il terzo giorno consecutivo, nonostante le rigide misure di sicurezza. Le manifestazioni sono iniziate quando Teheran ha ammesso di aver abbattuto per errore il Boeing ucraino. La polizia ha negato di aver sparato ieri sulla folla. Intanto cresce la tensione tra Gran Bretagna e Iran dopo il fermo temporaneo dell'ambasciatore britannico a Teheran. L'ambasciatore iraniano a Londra è stato convocato dal Foreign Office, dal Ministero per gli Esteri, per protesta, giudicando l'episodio che ha coinvolto il diplomatico inaccettabile. E parliamo quindi dei reali inglesi. Via libera dei Windsor a un periodo di transizione verso la nuova vita che Harry e Meghan vogliono creare per la loro famiglia. In una nota diffusa dalla corte a nome della regina dopo la riunione dei vertici della Royal Family britannica, si sottolinea che i duchi di Sussex vogliono in prospettiva sganciarsi dai finanziamenti pubblici dell'appannaggio reale, che intanto si divideranno tra il Regno Unito e il Canada. Poi ne parleremo nel corso di questa puntata con un'esperta di famiglie reali. Ancora all'estero, sta destando orrore in Germania il caso di una bambina di 5 anni lasciata per oltre 2 anni in stato di abbandono in una casa da sola, al buio. È accaduto a Eberwald, un paesino del Brandeburgo, a nord di Berlino. Sulla base delle notizie emerse sulla stampa locale, la procura ha deciso di aprire un'indagine. La bambina è stata portata in ospedale a Bernau prima di Natale, dove sono stati riscontrati deficit importanti nella nutrizione e anche nella capacità di esprimersi. La principale ragione di scandalo è che la famiglia era già finita sotto osservazione dei servizi sociali dal 2017, tuttavia non era stato dato alcun seguito a quelle osservazioni, riferisce il giornale La Bild. Solo nel novembre 2019 un assistente sociale aveva lanciato l'allarme. Di nuovo in Italia con la cronaca. Piloni spostati di 7 cm e rischio sicurezza segnalato già nel 2018 dal Ministero delle Infrastrutture per il viadotto Cerrano sulla A14. Ma i nuovi test consegnati oggi da Autostrade per l'Italia potrebbero indurre a breve il GIP di Avellino a revocare lo stop ai mezzi pesanti deciso il 19 dicembre. È lo stesso Ministero delle Infrastrutture ad aver segnalato criticità in materia di sicurezza sul viadotto Cerrano sull'autostrada A14 tra Pescara Nord e Pineto. Le pile di fondazione del viadotto si sarebbero in particolare spostate di 7 cm in seguito a movimenti dei terreni. Questi elementi sono emersi dal provvedimento con il quale il GIP di Avellino ha disposto il 18 dicembre scorso il divieto di transito dei mezzi pesanti sul viadotto, costringendo da settimane camion e tir a deviare su strade ordinarie. Secondo Autostrade per l'Italia, lo spostamento di 7 cm non avrebbe però riguardato le pile dei viadotti, ma i terreni, e i nuovi test consegnati stamattina al Ministero, effettuati da tecnici esterni, dimostrerebbero che tali spostamenti si sono fermati nel 2019 e che le strutture del viadotto garantiscono ora piena sicurezza. Sulla base di queste nuove carte, il Ministero potrebbe dare parere positivo al traffico dei mezzi pesanti, inducendo così il GIP a dare via libera nei prossimi giorni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Inquinamento. Visto il persistere a Roma degli elevati livelli di smog nell'aria, è stata disposta per la giornata di domani, martedì 14 gennaio, la limitazione alla circolazione veicolare privata nella zona traffico limitato fascia verde. Previsto lo stop dalle ore 7.30 alle 10.30, dalle 16.30 alle 20.30 delle auto diesel da Euro 3 fino a Euro 6. E ora, in questo caso, cominciato ormai 10 anni fa, ma ancora oggi in un'udienza del processo Rubiter, sono emerse novità sullo scandalo delle cosiddette cene eleganti di Arcore. Ci sono i dettagli più pruriginosi dalle stanze del Bunga Bunga, ma c'è pure la conferma di quanto, secondo l'accusa, sarebbe avvenuto dopo, col silenzio comprato con soldi e ruoli in TV. Francesco Chiesa Soprani, già agente dello spettacolo, depone al processo Rubiterra come teste, ma ben presto il presidente della corte gli affianca un avvocato, perché le sue dichiarazioni, spiega, sono autoindizianti in quello che racconta, cioè potrebbero esserci accuse a suo carico. Chiesa Soprani ammette infatti di aver chiesto ad un avvocato dell'entourage di Silvio Berlusconi di collaborare con qualche trasmissione Mediaset proprio alla luce di quanto sapeva sulle notti di Arcore, e questa potrebbe essere tentata estorsione. Quello che la gente sapeva è la minuziosa descrizione dei rapporti che a turno, in una stanza buia, descrive ora, le ragazze avevano col presidente. A raccontarglielo sarebbero state Barbara Guerra ed altre giovani ospiti di Arcore, ora imputate per corruzione in atti giudiziari. Sono accusate di aver mentito per soldi, e questo è il cuore del processo Rubiter, seguito poi anche dal Quater, ultimi filoni di uno scandalo iniziato ormai 10 anni fa. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di un virus. C'è il primo caso identificato fuori dalla Cina del nuovo coronavirus che finora ha fatto ammalare 41 persone con un'infezione polmonare. Si tratta di una persona in Thailandia identificata e ricoverata lo scorso 8 gennaio. È un viaggiatore proveniente da Wuhan, la città cinese focolaio dell'epidemia. Lo rende noto l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi una scoperta molto importante, è stato scoperto in un batterio intestinale, l'Escherichia coli, un nemico del cuore. Il batterio infatti contribuisce a causare l'infarto trovando una via di fuga dall'intestino. Questo entrando in circolo nel sangue e annidandosi nelle maglie del trombo che ostruisce una delle coronarie che porta ossigeno al cuore. La scoperta, resa nota sullo European Earth Journal, è frutto di una ricerca su 150 persone guidata da Francesco Violi, direttore della prima clinica medica del Policlinico Universitario Umberto I, che sarà ospite questa sera nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Siamo al cinema, annunciate le nomination agli Oscar in vista della cerimonia del 9 febbraio a Los Angeles. Guida tutti i film Joker con 11 candidature, già vincitore di 2 Golden Globe e del Leone d'Oro a Venezia, mentre The Irishman, C'era una volta Hollywood e 1917 ne hanno ottenute 10 e 6 sono andate a Piccole donne e Parasite. Tra le migliori attrici candidate Saoirse Ronan per Piccole donne, Charlize Theron per Bombshell e Renée Zellweger. Tra gli attori invece sono candidati Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix e Jonathan Pryce. Ne parleremo con il nostro esperto di cinema. E poi questo allarme nel Cuneese. Tra Corneliano e Piobesi, in provincia di Cuneo, si aggira una pantera nera. A lanciare l'allarme è stato la sindaca Alessandra Balbo. Intorno alle 12 un giardiniere di una ditta privata al lavoro presso una villa della zona di Bricco di Piobesi si è imbattuto in una pantera e subito l'ha scambiato per un grosso cane nero. Si è chiuso nel cortile dove stava lavorando e ha avvisato il comune. Sono stati allertati i carabinieri, a cui sarebbe giunta la segnalazione di un secondo avvistamento. Ritorna un po' queste visioni, non si sa quanto concrete, di pantere che si aggirano nelle cittadine italiane. Per chiudere, lo sport con la domenica del calcio che ci ha regalato emozioni, ma anche 2 gravi infortuni nella stessa partita. Una partita, 2 legamenti crociati saltati, 2 campioni in meno, forse in un'altra sfida ancora più attesa. Bilancio dolente di Roma-Juventus. Sfortunati i protagonisti, il turco bianconero Demiral e il giallorosso Nicolò Zaniolo, forse il talento più brillante del nostro calcio. L'uno si è infortunato ricadendo dopo un colpo di testa, l'altro franando tra De Ligt e Rabiot dopo una splendida progressione. E ora sarà corsa contro il tempo per rientrare prima possibile ed esserci appunto nella sfida dei sogni, quell'Italia Turchia che il 12 giugno, proprio all'Olimpico, inaugurerà la fase finale di Euro 2020. Sogno che deve però fare i conti con dolore e riabilitazione, e la fretta ora potrebbe essere la peggior nemica, come spiega Vincenzo Pincolini, ex preparatore atletico del Milan e della nazionale di Arrigo Sacchi. Si parla sempre di recuperi veloci, un talento come Nicolò, io penso che abbia bisogno di un recupero vero, fatto di tempi regolari, anche la scadenza degli europei diventa perlomeno da punto interrogativo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo si chiude la sintesi della giornata, in attesa tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando su strade e autostrade, di cominciare ad approfondire alcuni degli argomenti in primo piano. Dice qualcuno da Pescara, scrive questo ascoltatore Claudio, siamo rovinati dal traffico, ore e ore per spostarsi, anche adesso sono 2 ore che sono sulla variante della SS16 partito da Pescara per andare a Città Sant'Angelo, una vergogna tutta italiana. Sappiamo che ci sono problemi, ne parliamo quasi costantemente, insomma, di questi tratti di strade, autostrade con delle grosse difficoltà. Torniamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti lordi di notizie, di aggiornamenti in diretta, pieni pieni di informazioni, di approfondimenti con gli ospiti. Vi dicevo che parleremo di vari conclavi, sarebbe conclave in realtà in plurale quasi mai si dice, ma ce ne sono state diverse oggi per quanto riguarda la Libia, per quanto riguarda la politica italiana e anche per quanto riguarda la famiglia reale in Gran Bretagna. Cominceremo adesso appunto a incamminarci lungo questi temi con gli ospiti. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349 238 6666, e vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, le notizie principali. Politica italiana, Conte assicura che per il governo ci sarà a breve un'agenda efficace e condivisa. Salvini avverte che se vinciamo, dice, alle regionali, l'esecutivo sarà sfrattato. Il PD intanto appunto in conclave in un'abbazia vicino Rieti. La guerra in Libia, trattative a Mosca, il premier libico Sarraj firma la tregua mentre il generale Haftar chiede tempo sino a domani. Per i reali inglesi, vi dicevo, Elisabetta ha detto di sì alla nuova vita di Harry e Meghan. Ora ci sarà un periodo di transizione, ma poi capiremo meglio in cosa possa consistere. In Iran continuano le proteste antigovernative, è il terzo giorno dopo che l'Iran ha riconosciuto di aver abbattuto per errore l'aereo ucraino. Viabilità e sicurezza, viadotto Cerrano sulla 14 sotto osservazione per lo spostamento del terreno. Inquinamento, troppo alti i livelli dello smog a Roma, domani due fasce di stop per le auto fino agli Euro 6. Salute, una ricerca italiana scopre che un batterio intestinale è complice dell'infarto. Ne parleremo con il professore che ha guidato questa equipe italiana. Per il cinema parleremo invece delle nomination agli Oscar 2020. State tranquilli che perverremo a un'agenda condivisa, un'agenda per il processo riformatore che vogliamo varare, e ci ritroveremo molto più convinti, molto più determinati, troveremo una sintesi efficace e condivisa. Un'agenda condivisa e una sintesi efficace lo garantisce per l'immediato futuro del governo giallorosso, l'avete sentito, il presidente del Consiglio Conte. Conte molto impegnato anche fisicamente, perché si sta spostando da un paese all'altro nell'operazione diplomatica internazionale per un cessate il fuoco, una tregua in Libia, ma anche molto impegnato sul fronte interno con diverse gatte da pelare, la tenuta della maggioranza con i malesseri del PD che oggi è una due giorni riunito in un'abbazia vicino Rieti per capire, cercare la propria identità, il proprio futuro, i malesseri del Movimento 5 Stelle, le elezioni regionali che sono alle porte. Molto si chiedono, saranno una cartina di tornasole per capire se il governo andrà avanti oppure no, il caso Gregoretti. E subito coinvolgo la nostra Betta Fiorito. Cara Betta, ciao, buonasera, buonasera ai radioascoltatori. Roberta, in diretta da Roma naturalmente, la nostra Betta Fiorito. Betta, allora Conte ha rassicurato, dice ci sarà un'agenda condivisa a giorni, ci sarà una sintesi efficace, anzi ha detto che il dibattito interno è salutare, ci darà nuovo carburante ed energia per l'attività di governo, e quindi farei proprio sentire qualche passaggio di Conte. Io auspico che questi confronti interni siano ampi, partecipati e poi pervengano anche a delle proposte molto condivise. Questo dibattito interno anzi è salutare, perché è la linfa che ci consentirà poi di dare nuovo carburante, immettere nuovo carburante nella macchina governativa, nuove energie per l'attività di governo. E poi dice appunto a fine mese ci sarà una sintesi sulle riflessioni della maggioranza. È chiaro che a parte adesso questi dossier internazionali che in questo momento sono assorbenti, ma questo non ci distrae ovviamente dal dibattito interno, dalla politica interna, ma ben vengano alcuni giorni in più per dar modo a tutte le forze politiche di operare questa riflessione al proprio interno. A fine mese ci ritroveremo e potremo operare più facilmente una sintesi. Io per parte mia, anch'io sto facendo le mie riflessioni, le mie elaborazioni, e ci confronteremo tutti insieme. Beh, allora Conte è molto ottimista, però da una parte abbiamo parlato in questi giorni del Movimento 5 Stelle, del suo travaglio, degli espulsi, dei trasfughi, delle critiche nei confronti della leadership di Di Maio, dall'altra c'è il PD che è alla ricerca della sua identità, chiuso in questa abbazia nel suo conclave vicino Rieti. Che cosa emerge da lì, Betta? Ma insomma, intanto anche l'ottimismo di Conte va un attimo ridimensionato, perché mi sembra che abbia parlato di tutto e di nulla, no? Un po' la rana e la fava. Allora faremo questa bellissima verifica, non ha detto su che cosa la faranno, però un'agenda condivisa. Un'agenda condivisa, sì. Ci possiamo scannare, però lo dobbiamo fare con il sorriso, cioè, con stile soprattutto. Nel senso, che cosa ha detto? Ha parlato di legge elettorale, non ha parlato di legge elettorale, ha parlato di riforme, ha parlato di conti, di nomine, niente, non ha detto niente, ha detto si incontreranno e ci sarà l'armonia. Come sei curiosa, Betta, però invece per quanto riguarda San Francesco, capito, poi è sceso San Francesco e ci sono stati gli uccellini che cantavano, perché insomma, vabbè, detto questo, il nulla, il vuoto cosmico. Poi c'è questa bellissima riunione a Rieti, nell'abbazia, sai, queste cose da PD, dici, no? Molto... dici che in qualche modo ha preso una strada un po' mistica il PD. Sì, sì, sì. Queste cose da PD, perché sai, il PD no? Umbria, Alto Lazio, non Emilia Romagna, però, no? Perché ci saranno il 26. Sì, ci saranno il 26. Loro si sono riuniti in questa bellissima abbazia dove chiaramente Dario Franceschini ha puntato i piedi, ha detto: noi siamo assolutamente discontinui rispetto al vecchio governo, quello giallo-verde, e Zingaretti è alla ricerca di un'identità. Allora, dovremmo averlo Franceschini, se non sbaglio, che appunto tra l'altro è stato il maggior fautore di questa alleanza, no, iniziale tra Movimento 5 Stelle e PD per questo nuovo governo, ed è quello che insiste anche sul fatto che ci possa essere un futuro insieme. Sentiamolo. Intanto dobbiamo toglierci i dubbi, dobbiamo avere la convinzione ferma che in agosto abbiamo fatto la cosa giusta. Se non fosse avvenuto in quel momento, con quella colondata che aveva in quel momento la destra di Salvini, non a caso lui aveva scelto il momento per lui migliore per portare il paese alle elezioni, probabilmente vediamo il film rovesciato, probabilmente oggi avremo Salvini da qualche mese a Palazzo Chigi. Però Betta, c'è Orlando, sempre del Partito Democratico, che ha detto una cosa molto importante, anche piuttosto dura come autocritica nel PD, sentiamolo. Noi non vogliamo aperture a sinistra, noi vogliamo aperture alla società. Il nostro problema non è aver avuto problemi con questo o quel pezzetto di ceto politico. Il nostro problema in questi anni, a partire in modo drammatico alle elezioni del 2018, è stato quello di avere rotto con un pezzo di società italiana con il quale vogliamo ricostruire un rapporto solido e un patto per guardare avanti. Hanno rotto con un pezzo di società Translation, traduci, sì. Allora, noi dobbiamo recuperare i valori di sinistra, però dire che vogliamo guardare a sinistra potrebbe farci perdere, ecco, dei voti anche al centro. Ora, siccome il problema è stata la gestione di Matteo Renzi, che voleva più un partito di centro che non un partito di sinistra, noi diciamo che vogliamo recuperare dei pezzi di società. In realtà quello che stanno cercando di fare è guardare un pochino a sinistra e magari strutturarsi su dei valori che erano più del PD, che non erano magari il Jobs Act che ha voluto fare Renzi, no? Cioè con più tutele. La cosa che va detta, Renzi dice che adesso lui li asfalterà, no? Sai, questi suoi con Italia Viva. Sì, con Italia Viva. Mi sembra che poi da rottamare ad asfaltare, insomma. Sì, ma sì. Insomma, mi sembra che però Italia Viva non abbia questi grandi numeri, no? Al momento no. Bisogna però dire che dall'altra parte c'è un PD che non ha questi grandi leader carismatici, cioè magari sono anche leader, però non sono affatto carismatici. Cioè, abbiamo sentito Zingaretti, Franceschini e Orlando, che non è che ti fa partire il cuore un discorso. E allora ti voglio far sentire Zingaretti, che è il segretario del PD, dice: io non voglio annettere nessuno, perché aveva parlato delle sardine, eccetera, eccetera. Sentiamo che cosa dice Zingaretti. Io ho detto, e vi prego di leggere le cose che dico io e non quelle che mi mettono in bocca, io non voglio né annettere né includere nessuno. I partiti hanno il dovere etico e morale di dare delle risposte ai movimenti, ma non di metterci il cappello o di tirarli per la giacchetta. Mi fa piacere, perché dalle parole che sento su questo c'è un atteggiamento di grande correttezza. E sempre Zingaretti dice: ci vogliono idee e prospettive per il paese. L'Italia chiede una prospettiva, chiede una fase della ricostruzione. Questa ricostruzione, a mio giudizio, può venire grazie al contributo di questo governo e i democratici, il Partito Democratico vuole mettere in campo le proprie idee. E poi dice: il nostro è un partito plurale e unito. E visto che questa era una delle grandi critiche che in parte giustamente ci venivano fatte, di essere sempre divisi, dico: ci siamo, partito pluralista e finalmente unito. Anzi, dico grazie a tutte e tutti per questo spirito. Ecco, quindi Zingaretti è il leader del Partito Democratico, Betta? No, sì, ma lui deve ringraziare Matteo Renzi, che se n'è andato, e quindi adesso il Partito Democratico è unito. Cioè, dai, diciamo pure questo. Sì, adesso, lo spaccava un po' lo, sì, lo beh, diciamo che sì, Renzi, sì. Noi abbiamo avuto gli ultimi anni del Partito Democratico dove c'era Renzi e gli anti-renziani, i renziani e non renziani. Adesso Renzi ha fondato il suo partito e Zingaretti chiaramente è rimasto con quel partito che non ha più tante correnti. Bisogna però che pure Zingaretti un pochino, ecco, magari ci dica che cosa vuole fare il PD, perché anche qui ho sentito bellissime parole, però pure qui cose concrete, cioè, obiettivi cose sicuri, concrete, dici, sì, vabbè, cioè, siamo andati nelle librerie prima, siamo andati sempre questo ricorso ai territori, no? Prima siamo andati nelle librerie alla periferia di Roma, adesso stiamo nell'abbazia a Rieti, sempre però un po' PD, cioè che vuoi fare? PD, che vuoi fare? Senti, a proposito di qualcosa di sinistra, direbbe Nanni Moretti, ecco, insomma. Lo dice Zingaretti qualcosa di sinistra? Non lo so, perché non sta dicendo nulla. Ma questa storia del nome, ancora Zanda ha detto almeno manteniamo un nome, c'è ancora l'ipotesi che si cambi ulteriormente nome? Se tu pensi agli italiani, che cosa gliene frega se si chiama Partito Democratico o se si chiama Democratic Party o se si chiama Partito Rosa Azzurro. Basta, cioè, che abbia delle idee chiare, sì. È una visione del paese. Allora io ti farei sentire invece un'altra forza politica, diciamo, in cerca d'autore, che è il Movimento 5 Stelle. Sentiamo il viceministro Buffagni. A me interessa sapere dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare, cosa vuol dire sviluppo sostenibile, perché è bellissimo da dire, ma come lo decliniamo? Qual è la proposta politica che portiamo ai cittadini? Io, ripeto, credo sarà quella l'occasione per discuterne. Nessuno avrà la soluzione in tasca, però proposte con proposte possono creare un valore aggiunto, e credo che questa sia un'occasione storica. Il movimento sta crescendo, è evidente, siamo arrivati, come ho già detto, in una fase giovanile dopo aver lasciato l'adolescenza, e come ciascuno di voi ha passato, in quei momenti bisogna anche capire cosa si vuole fare da grandi. Quindi via i brufoli, Betta, capiamo cosa fare da grandi. Dove va il Movimento 5 Stelle? Ma anche qui mi sembra che non vada da nessuna parte, nel senso che intanto il movimento sta crescendo, però poi sta diminuendo nei consensi, no? Mi sembra che ci sia una crisi, e poi non si capisce dove vada, perché abbiamo Paragone di Battista da una parte, Di Maio che viene mangiato dai suoi, insomma mi sembra che ci sia anche qui grossa crisi, e che c'è grossa crisi. Che c'è grossa crisi. Ora l'unica cosa che si riesce a portare a casa è sicuramente il taglio del numero dei parlamentari, perché sappiamo benissimo che il referendum verrà perso assolutamente, è solo un modo per allungare il brodo, per magari far finire la legislatura eleggendo 1000 parlamentari invece di 600, e questo sarà un grande successo del Movimento 5 Stelle. Poi però la legge elettorale quale sarà? Proporzionale con sbarramento al 5%? Chi la vota? La vota il PD, la vota il Movimento 5 Stelle, Italia Viva non la vota perché non si sa se raggiunge il 5%. Insomma, la vedo anche dura, anche per quello che riguarda le riforme istituzionali. Non mi sembra che tutto, mi sembra che ci sia un rimandare un po' i problemi. Senti, allora orizzonte comunque c'è sempre la questione del caso Grigoretti, in cui Salvini è indagato per questa nave della Marina Militare tenuta diversi giorni al largo con diversi migranti. Ancora oggi si è riunita la giunta, poi mi sembra che la maggioranza abbia lasciato però la riunione per protesta per una serie di motivi, ma a questo punto si voterà dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Tu l'hai capito, Betta? Guarda, domani c'è una nuova riunione, però a quanto si è capito la maggioranza protesta contro il presidente della giunta, che è Gasparri. Ricordiamo che sono giunte che generalmente vengono presiedute dall'opposizione, proprio per controbilanciare a livello istituzionale, no? Quello che è la maggioranza e quello che è l'opposizione. Quindi chiaramente Gasparri vorrebbe votare il 20 a ridosso di quello che è il grande appuntamento politico, per cui anche il centrodestra sta affilando le armi. Matteo Salvini è in giro per l'Emilia Romagna e sentiamo che cosa ha detto in questa propaganda elettorale che sta facendo. E quindi sentiamo bisogna capire. Già, sentiamo. Sempre in casa mia, e i confini di uno Stato sono come il portone di casa mia, suoni il campanello e chiedi per favore. E se mi processeranno perché ho difeso i confini del mio paese, sarò la persona più orgogliosa del mondo. Insomma, ribadisce la sua linea che ha difeso i confini. Betta, ti chiedo un'ultima cosa, visto che tu sei addentro le segrete stanze e sai tante cose. Questa pantera che si aggira nel Cuneese, tu ne hai sentito magari parlare, una pantera nera che sai che ogni tanto appaiono queste pantere. Guarda, non so, io mi ricordo la pantera quando ero all'università, che si aggirava la pantera all'università, alla Sapienza di Roma. Da dove vengono queste pantere? E mi dovevo pure laureare e mi fecero ritardare la sessione di la laurea. La famosa pantera. La famosa pantera che protestava. Adesso sarà non lo so. Ribelle. Questa è la ricerca di un'identità, forse anche lei, di una strada da seguire. È l'alter ego di Giorgia Meloni. Lasciamola lì allora. Possiamo magari l'alter ego di Giorgiona. Ipotizziamola così. Grazie Betta Fiorito. Grazie a voi. Ti saluto. Ciao cara Betta, buona serata. Ci fermiamo momentaneamente, ma sapete, una breve pausa di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è sempre il numero per SMS e WhatsApp. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e suonata da Roberta Giordano, con voi in questa sfida quotidiana nel raccontarvi a fine giornata cosa di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, e poi anche cercare di chiarire diversi argomenti in primissimo piano con gli ospiti. Abbiamo perlustrato la politica italiana con gli argomenti che sono nel menu in particolare di oggi e delle ultime ore. Adesso ci spostiamo invece su orizzonti più ampli, mentre Nino ritorna ancora sulla politica italiana. Dice: io comunque non ho mai pensato che il PD fosse un partito di sinistra, nemmeno quando si chiamava PC. Dice: allora piuttosto scelgo Renzi. Queste sono le opinioni degli ascoltatori. Mentre un altro messaggio è questo, vediamo se lo ritrovo. Sulle strade, Giuseppe da Bergamo dice: ma è possibile che in Italia, quando non hanno i soldi per riparare le strade, abbassano i limiti di velocità, non hai soldi per riparare i ponti e le gallerie, chiudono le corsie o i tratti di strada, e quando un cittadino non riesce a pagare le tasse? Vabbè, sono due cose un po' diverse, Giuseppe, ma capisco a volte anche un po' di esasperazione per certe situazioni, in particolare in Liguria, ma anche in Abruzzo. Comunque, dicevo, ci spostiamo adesso sulla politica internazionale, in cui è impegnata ovviamente in primo piano in questi giorni anche l'Italia. Sto parlando della crisi libica. Sembrava oggi che l'accordo, il cessate il fuoco voluto in particolare dal presidente turco Erdogan e dal presidente russo Putin, che concordemente nei giorni scorsi hanno lanciato questo appello a entrambe le parti rivali, antagoniste in Libia, che sono appunto il premier riconosciuto libico Sarraj dall'ONU e dalla comunità internazionale e il generale Haftar, che è il suo acerrimo nemico. Bene, Sarraj oggi in questo vertice a Mosca ha firmato questo accordo per il cessate il fuoco, almeno per una tregua temporanea, mentre il generale Haftar ha chiesto tempo fino a domani. Chiamo subito in causa il nostro Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a voi, buonasera a te. Allora, intanto dicevo anche che il nostro presidente del Consiglio Conte è in un tour diplomatico, no? Anche lui per cercare intanto di ritagliare all'Italia un ruolo importante in questa mediazione, e poi ovviamente per dare il contributo, no? anche nostro. Ad Ankara oggi ha incontrato il leader turco Erdogan. Insomma, la situazione al momento, Gerardo, qual è? Sembrava che si prospettasse un po' meglio, anche se forse sembrava anche avere tempi un po' ripentini rispetto a quello che è successo in questi giorni, no? questo possibile accordo. Sì, certo. Diciamo che potevamo essere noi mercoledì scorso i notai di questa Pax turco-russa libica, però in realtà poi, come si sa, c'è stato questo rifiuto di Sarraj di venire a Roma proprio nelle stesse ore in cui era presente Haftar. Cioè, Haftar c'era, lo ricordiamo, a Palazzo Chigi, poi Sarraj invece è andato direttamente a Tripoli da Bruxelles. Però poi sabato è tornato a Roma, ha incontrato Conte, eccetera. Il documento per il cessate il fuoco è stato messo a punto appunto dalle autorità turche e russe, è stato illustrato ieri dal ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, ed è stato accettato da Sarraj e dal presidente dell'Alto Consiglio di Stato, Khaled al-Misri, mentre sia Haftar che il presidente del cosiddetto Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, hanno chiesto tempo fino a domani mattina. Che cosa prevede prevede questo documento sono 7 punti, ma i punti principali sono l'osservanza incondizionata del cessate il fuoco, la definizione di una linea del fronte tra le due parti che non devono passare, la commissione militare un 5+5 che è già stata messa a punto nel lavoro preparatorio di Berlino, della conferenza di Berlino che si terrà domenica prossima sotto l'egida dell'ONU e che verifichi il rispetto della tregua. Poi le parti si impegnano anche a supportare tutte le iniziative turco-russe per una cessazione duratura delle ostilità. In realtà il difficile comincia adesso, probabilmente Haftar domani firmerà, chiederà probabilmente di riconoscimento del terreno che lui ha conquistato in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, però alla fine firmerà. Il Berlino è importante perché da Berlino anche politicamente l'Europa si deve ridare un ruolo e in questo l'Italia e soprattutto la Germania stanno svolgendo un ruolo importante, la Germania con Putin e l'Italia con la Turchia, Erdogan, domani con Al-Sisi l'egiziano, giovedì in Algeria. Gerardo, tu stai parlando della conferenza di Berlino che ci sarà domenica 19 gennaio, no? Potrebbe essere molto importante a questo punto. È una conferenza che doveva esserci già alla fine dell'anno scorso, la quale tiene molto la Merkel, che non prevede la presenza dei soggetti turchi, ma soltanto dei 5 paesi membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, più ovviamente l'Italia, la Turchia, l'Egitto e gli Emirati, l'Unione Africana, poi l'Unione Europea, eccetera. Però non ci sono i soggetti libici, non ci sono né Haftar, non ci sarà né Haftar né Sarraj, che dovranno poi invece essere presenti in un secondo momento quando si riunirà probabilmente a Ginevra, nelle Nazioni Unite a Ginevra, la cosiddetta assemblea intralibica, che però quello è una seconda fase che dovrebbe preludere, se tutto andrà per il meglio, alle elezioni. Gerardo, io farei sentire, scusami, Conte a proposito di quello che è, diciamo, l'obiettivo in particolare che lui dice prioritario da parte dell'Italia rispetto alla Libia. Quello che l'Italia raccomanderà sempre sarà quello di lavorare per una Libia unita, per una Libia autonoma, sovrana. E poi appunto dice, appunto, auspico che ci sia una soluzione nella conferenza di Berlino che, come ricordavamo, c'è il prossimo 19 gennaio, domenica. Senti, per chiudere, Gerardo, comunque pare che a questo punto i due attori principali nella crisi libica siano diventati la Turchia e la Russia, no? Esatto, però ecco, da Berlino forse, come si dice, una ricetta di vincita europea ci potrebbe essere e l'Italia, la Germania, ma soprattutto l'Italia si pone a garanzia del fatto che il futuro democratico della Libia sarà comunque soltanto in mano ai libici, cioè non a dei soggetti esterni, a interferenze esterne e neanche quindi a Russia e Turchia. Grazie Gerardo Pelosi, ciao. Grazie Gerardo, buon lavoro. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E a questo punto vi voglio parlare di una scoperta medico-scientifica che parrebbe sensazionale, sicuramente sorprendente, sentirete tra poco, è merito innanzitutto di scienziati italiani. Questa scoperta, scienziati italiani che hanno con una ricerca scoperto la complicità, diciamo almeno in parte il coinvolgimento di un batterio dell'intestino, che è l'Escherichia coli, nell'infarto. Quindi un batterio che risulta in circolo, infatti, questo nel sangue di pazienti infartuati ed è anche presente nell'arteria ostruita che causa l'infarto. Questa scoperta è stata pubblicata sullo European Heart Journal ed è frutto di una ricerca su 150 persone che è stata guidata dal professor Francesco Violi, che è direttore della prima clinica medica del Policlinico Universitario Umberto I di Roma. Professor Violi, buonasera. Buonasera. Quindi, a voi. Ecco, detta così, uno cosa immaginerebbe che nell'infarto possa veramente c'entrare un batterio? Sì, non l'immaginavamo neanche noi, però l'abbiamo trovato nel 34% dei soggetti con infarto del miocardio. Lo abbiamo cercato nel trombo dei soggetti con infarto, come voi sapete l'infarto è dovuto a una trombosi delle coronarie, in concentrazioni più alte rispetto ai gruppi di controllo. Abbiamo individuato poi il recettore attraverso cui l'Escherichia coli aumenta la trombosi. Avendo individuato il recettore, abbiamo iniettato l'Escherichia coli nell'animale, dimostrando che la trombosi era aumentata anche nell'animale, e poi grazie a questa molecola che blocca il recettore, che si chiama Toll-like receptor 4, abbiamo inibito la trombosi. Professore, ma questa Escherichia coli è quella che a volte si sente dire magari nel mare inquinati dove si fa il bagno, attenzione che per via delle fognature c'è l'Escherichia coli, cioè, oppure è sempre presente nel nostro intestino questo batterio? No, è presente nel nostro intestino, è uno dei principali batteri intestinali, che non dovrebbe esserci nel sangue, diciamo che noi non lo troviamo nei soggetti sani, non c'è, né invece l'abbiamo trovato nei soggetti con cardiopatia ischemica, e questo ovviamente ci ha fatto intanto pensare perché, ed è uno dei meccanismi che abbiamo osservato, che in questi soggetti c'è un'aumentata permeabilità intestinale, per cui è possibile che il batterio passi perché le maglie dell'intestino sono più lente. Professore, ma secondo lei è nato prima l'uovo o la gallina? Nel senso, è perché magari questi pazienti sono particolarmente indeboliti, allora c'è questo passaggio nel sangue delle Escherichia coli, o è proprio l'Escherichia coli che contribuisce a creare l'infarto? Questa è una bellissima domanda. Una delle possibilità è che il disturbo circolatorio che in questi soggetti hanno, probabilmente a livello sistemico, sia presente non solo nelle coronarie, ma anche a livello del tubo intestinale, cioè le arterie intestinali sono state fino adesso studiate pochissimo, quindi è possibile che sia l'aterosclerosi anche lì e che questo poi danneggi l'intestino. Senta, però da questa scoperta mi pare che possa venire una cosa importantissima, cioè la possibilità di elaborare un vaccino preventivo per l'infarto? Beh, questa è una possibilità per, diciamo, la prevenzione. L'altra possibilità è di, durante la fase acuta dell'infarto, di utilizzare questa molecola che blocca l'interazione tra il batterio e il suo recettore. Quindi sono due aspetti che possono essere investigati nel prossimo futuro. Quindi persone avvisate, mezze salvate. Grazie professor Francesco Violi. Grazie a voi. Grazie, buona ricordo. Serata. Direttore della prima clinica medica del Policlinico Universitario Umberto I di Roma. Vi ricordo anche che domani alle 12 ci sarà un ulteriore approfondimento in Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone su questo tema. Oggi, a proposito sempre di conclavi, uno piuttosto inedito riguardato la famiglia reale inglese, una riunione ai vertici della Royal Family britannica per valutare la decisione di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi di Harry e Meghan, secondogenito di Carlo e Diana e di sua moglie Meghan, di rendersi piuttosto indipendenti dalla vita di corte. Ira della famiglia reale, in particolare della regina, perché l'avevano comunicato quasi prima ai media che non alla stessa famiglia. E però oggi mi sembra Enrica Roddolo, che saluto, firma del Corriere della Sera, esperta di teste coronate, ha scritto molti libri sulle famiglie reali e è in attesa ad aprile di questo nuovo libro sui segreti della famiglia britannica pubblicato dal Corriere della Sera Cairo Editore. Cara Enrica, buonasera. Buonasera e grazie. Allora, mi pare che la regina, tutto sommato, insomma, sia arrivata a una mediazione, abbia dato la sua benedizione? Dunque, intanto ha annunciato che ci sarà un periodo di transizione per la Megxit, così come è già stata definita Megxit, la rottura dei Sussexes dalla Casa Reale Britannica, un po' come c'è stato per la Brexit. E questo sicuramente, diciamo, non fa pensare bene gli inglesi e neanche il mondo intero, perché sappiamo quanto è stato doloroso arrivare alla Brexit. Questo fa capire che comunque ci vorrà ancora del tempo. Infatti, nella seconda parte del comunicato ufficiale di Buckingham Palace si dice che ci vorrà del tempo per definire tutte le cose in modo opportuno, non sono faccende facili da risolvere. Emerge però chiaramente che, appunto come dicevi tu, la regina in un certo senso ha malincuore, ma prende atto del desiderio di Harry e Meghan di rendersi economicamente autonomi. E quindi questo farà veramente la grande differenza, perché bisognerà capire tante cose. Resta il nodo fortissimo sulla sicurezza, sulla protezione di sicurezza della quale oggi godono i duchi di Sussex, e non dimentichiamo che Harry è stato due volte in Afghanistan e quindi è un possibile bersaglio di terroristi oggi. Assolutamente. E poi c'è il nodo anche commerciale. Su Corriere della Sera mi interessavo poco fa, l'ex ambasciatore a Londra Giancarlo Aragona fa notare giustamente come ci sia il problema di commercializzare una parte, una fetta di istituzione, perché se uno commercializza il marchio Sussex Royal, chiaramente commercializza un pezzo di di famiglia britannica. Enrica, senti, invece sulla questione, la questione dei finanziamenti, di cosa vivranno, no? In breve, che succederà? Ecco, questo è un altro nodo da sciogliere, anche perché è vero che ricevono in parte i loro finanziamenti tramite il cosiddetto sovereign grant della regina, una piccola parte da qui e una parte più consistente dai proventi dei ducati di Lancaster e Cornovaglia, che fanno capo al padre, il principe Carlo, però fanno capo al padre in quanto principe di Galles, quindi di nuovo in quanto istituzione britannica. E quindi questo sarà molto difficile, anche perché giustamente per arrivare a quell'ammontare di denaro che oggi i duchi di Sussex ricevono da questi due canali, dovranno lavorare veramente sodo, o insomma mettere a frutto il vero e proprio brand che al momento, del quale al momento dispongono, che appunto è il titolo di Sussex, e chissà cosa sarà del loro titolo. Già, e insomma chi vivrà vedrà, e cercheremo di capirlo nelle prossime settimane. Intanto c'è questo periodo di transizione, lo stesso periodo che ci sarà per esempio per la Brexit, diciamo la famiglia, anzi tutta la Gran Bretagna, abbastanza in fervore, in fibrillazione da vari punti di vista. Grazie alla nostra Enrica Roddolo, del Corriere della Sera. Ciao Enrica, aspettiamo il tuo libro d'aprile allora. Ciao Enrica. Grazie. Gotham si è persa. Che razza di vigliacco può fare questo a sangue freddo? Uno che si nasconde dietro una maschera. Joker, il film di Todd Phillips, il dramma dell'arcinemico di Batman, che ha trionfato alle nomination per gli Oscar, conquistando ben 11 candidature, più di tutti gli altri film del 2019. Già vincitore di due Golden Globe e del Leone d'Oro a Venezia. Oggi sono state annunciate le candidature degli Oscar 2020. La cerimonia di premiazione ci sarà il 9 febbraio a Los Angeles, ma su questo chiamo un esperto come Franco D'Assisti, con la sua Rosa Purpurea, tutti i sabati su Radio 24 alle 18.05. Caro Franco, quindi Joker. Carissima, eccoci. Ciao. Quindi era prevedibile Joker? Ma sì, dai, è senza dubbio secondo me il film dell'anno Joker. Adesso poi tante volte, sai, poi passa un mese o due mesi dall'uscita, tendiamo a dimenticarci perché idolo schiaccia idolo, e quindi ne arriva un altro che ti fa sognare, che ti fa... c'è stato il momento di The Irishman, adesso sta per arrivare in Italia anche 1917, mm-hmm, di Sam Mendes, e quindi come dire, chiodo schiaccia chiodo. Però secondo me Joker rimane il film dell'anno, anche se c'è un equilibrio clamoroso in termini di numero di candidature, perché 11 per Joker, ma 10 per 1917, C'era una volta Hollywood di Tarantino e The Irishman di Scorsese. Quindi insomma ci sono quattro film che il 9 febbraio si presenteranno praticamente sulla stessa linea per vincere i primi più importanti. Posso dire, Franco, che c'è anche un film che mi ha molto molto colpito, di cui forse si è parlato poco, non sono stata attenta io, che è Parasite, no? Un film sudcoreano. Sì, in realtà se ne è parlato abbastanza ed è stato un po' il caso d'autore, diciamo, di quest'anno. 3 milioni di euro di incasso in Italia, 10 milioni di euro di incasso in Francia, è stato un caso assoluto, anche questo uno dei film che hanno contrassegnato a fuoco questa stagione. La cosa clamorosa che è successa oggi nell'indicazione delle nomination è che ha preso 6 candidature, 6 nomination, cioè non solo quella al miglior film straniero, che secondo me vince in carrozza, ma anche in tante categorie, compresa quella del miglior film assoluto. E quindi non era mai successo a un film sudcoreano, ma penso che non fosse quasi mai successo neanche a un film che non fosse americano prendere 6 candidature. Franco, invece, tra migliori attrici e migliori attori, per esempio, la cosa particolare è che Scarlett Johansson la candidatura per ben 2 diversi film. Sì, sarebbe bestiale facesse la doppietta. Comunque, Scarlett Johansson nominata come protagonista di Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, commoventissimo film che la vede a fianco ad Adam Driver, e come non protagonista in Jojo Rabbit, anche questo un film molto interessante, con una chiave antinazista che esce adesso, sta per uscire proprio quasi in occasione della giornata della memoria. Quindi Scarlett Johansson sicuramente sarà presente quella sera. Spiace l'assenza di Robert De Niro nell'attore protagonista per The Irishman, che invece ha candidati i due non protagonisti, Al Pacino e Joe Pesci. Sembra quasi un dispetto a Robert De Niro, ma insomma l'Academy ha deciso così. Quindi entra nel vivo il countdown, conto alla rovescia verso la notte degli Oscar 2020, ricordo il 9 febbraio naturalmente a Dolby Theater di Los Angeles, ma vedrete che Franco D'Assisi ne avrà da parlare nella sua Rosa Purpurea. Ne parleremo assolutamente, senza dubbio, già da sabato prossimo. Grazie, buon cinema caro Franco. Ciao Roberto. Ciao Franco D'Assisti, noi ci aggiorniamo brevemente alle 22.